Log, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Questa mattina non posso fare a meno di dare esistenza e realtà e supporto a una lodevole iniziativa che è scaturita ieri nella conferenza stampa che annunciava la partecipazione gloriosa di Adriano Celentano al Festival di Sanremo. Sanremo, foto di rito e conferenza stampa ufficiale del Festival. Alle 13.17 Gianmarco Mazzi, direttore artistico, dà la notizia con cui l'ombra del molleggiato annulla le polemiche di questi giorni. Celentano devolverà il suo compenso in beneficenza attraverso Emergency e attraverso sette sindaci. Li chiama i Magnifici Sette, che gli indicheranno delle famiglie realmente bisognose di aiuto. In più pagherà di tasca sua le tasse previste dallo Stato in questi casi. Il commento di Morandi e Rocco Papaleo. Oltre a essere veramente il massimo degli ospiti che può avere Sanremo, degli artisti che rappresentano veramente l'Italia, il cinema, la canzone, la televisione, la storia, fa un gesto generoso, un segnale importantissimo per tutti. Non solo devolve tutto il compenso in beneficenza, ma ci paga addirittura le tasse sopra. Se uno fa un po' di conti, sa che alla fine venire a Sanremo gli costa più di 200.000 euro. Sono orgoglioso di poter condividere quel palco con lui, l'ho appena conosciuto a casa sua. Un grande evento, come vedete, tutti parliamo di tasse, tutti parliamo di stringere la cinghia, e Celentano è così generoso che l'autocompenso per il Festival di Sanremo, sicuramente meritato, nessuno mette in dubbio il valore sul mercato di un artista, lui lo devolverà in beneficenza. Mi piace soffermarmi su come sarà divisa questa operazione di grande fantagenerosità televisiva. Parte ne darà Emergency e parte, questa è la parte più interessante, verrà data a sette famiglie povere d'Italia. A scegliere saranno sette sindaci d'Italia. Ha scelto i sette sindaci che, secondo almeno le dichiarazioni che sono state fatte dal patron del Festival di Sanremo, Gianmarco Mazzi, direttore artistico, ha scelto dei sindaci poco legati ai partiti, quindi ha scelto Luigi De Magistris di Napoli, Flavio Tosi di Verona, Giuliano Pisapia di Milano, Matteo Renzi di Firenze, Gianni Alemanno di Roma, Michele Emiliano di Bari e Massimo Zedda di Cagliari. Questi sette sindaci, alcuni di loro hanno già dichiarato alle agenzie di stampa, ieri ho visto Pisapia dicendo mi sto dando da fare, ci siamo già attivati per cercare la famiglia povera, mi sembra che anche il sindaco Alemanno stia cercando la famiglia povera. Insomma, questa mattina è iniziato il casting di sette famiglie povere in sette città d'Italia. Voi domanderete, sì, ma chi è povero a Canicattì, che è povero a Gubbio, che è povero a Lambrate, no, Lambrate forse rientra già nel comune di Milano, non so se facciamo comune, comunque esistono tantissimi comuni, esistono tantissime dimensioni di povertà. Quindi questa lodevolissima, su cui non ho nulla da dire, operazione mi sembra assomigliare tanto nel meccanismo a un reality show, forse una nuova forma di reality show. Guardate, già è decaduto, ne parlammo all'inizio di questa settimana, il modello di reality corrente. Non ci sono più giovani ben tatuati, ragazze ben siliconate che vanno lì, si accapigliano, belli, ben vestiti e gloriosi e vincitori nella casa del Grande Fratello. Non ci sono più nemmeno i morti di fama rabberciati e tenuti insieme con sistemi di imbalsamazione egiziana, che si accapigliano per un tozzo di pane per contendersi la visibilità. Fanno parte categorie del passato. Probabilmente oggi si è pensato, ma questa è una mia cattivissima, pessima, ma anche innocente deduzione o illazione o, se volete, estrapolazione dalla realtà. Siate leggeri, non fate come questa mattina quelli che sono arrabbiati per un pezzetto che avevo scritto, ah, che cosa vergognosa, la gogna mediatica nei confronti di Celentano. No, nessuno ce l'ha con Celentano, solo che a me sembra che si stia mettendo a punto una sorta di nuovo meccanismo di reality legato al momento della crisi. La famiglia povera è il protagonista di questo grande casting. Ci saranno naturalmente le nomination, ci saranno tante famiglie povere che andranno, mi immagino, oggi in Campidoglio, a Roma sarà pieno di famiglie povere, e lì Alemanno dirà: no, tu sei nominato, tu fuori, tu dentro, e via dicendo. Vedo che è già cominciato Alemanno, leggo oggi, vedo una foto di Alemanno vestito da panettiere che inforna il pane per i poveri, col cappellino bianco e la parannanza da panettiere. Chissà se ha fatto la corpocultura per la tessera sanitaria necessaria per infornare il pane. Comunque, detto questo, i sindaci stanno preparando a fare grandi selezionatori delle famiglie. Immaginiamo quindi, una volta, immaginiamolo, mica c'è nulla di male, non è peccato, non mi sembra che possa essere accusati di blasfemia nei confronti del santo Celentano. Per essere santi bisogna morire, Celentano è vivo e vegeto, quindi prima ancora si è considerato blasfemo ogni atteggiamento lievemente ironico, leggiadramente sorridente nei confronti di questa iniziativa. Mi permetto questa mattina di iniziare io qui il grande casting per la famiglia più povera che sarà gratificata. Immaginate che bello, andrete probabilmente sul palco dell'Ariston assieme ai Magnifici Sette. Magnifici Sette sono i sette sindaci che saranno magnifici perché come i sette pistoleri avranno trovato le famiglie più povere, Magnifici Sette saranno anche i sette capofamiglie, i sette bambini poveri, le sette mamme povere, tutti lì sul palco. Pensate, ci sarà anche Belen, ci sarà Celentano, Gianni Morandi, Papa Leo, ci saranno i cantanti vincitori, ci saranno le stelle filanti, la musica, la fanfara, la standing ovation, tutti in piedi batteranno le mani, e voi sette poveracci d'Italia, gratificati e premiati dai tanti soldi Celentano. Sì, perché sono tanti soldini. Beh, io questa mattina quindi apro ufficialmente il casting ai Magnifici Sette. Chi di voi sente di poter rivolgere al sindaco un appello e dire: sono io che voglio partecipare a questo grande reality, io voglio partecipare, non mi nomini signor sindaco, uscite subito la nomination, salvatevi immediatamente dalla nomination telefonando all'800240024, ditemi i motivi per cui volete partecipare al grande reality dei poveracci. Non sappiamo dove andare, nessuno ci aiuta, tutte le porte sono chiuse, quindi speriamo e facciamo un appello al sindaco e a chi ne fa le veci di un aiuto, almeno una casa, ma pure una stanza e una cucina, un garage, per il bambino più che altro. (800) 24 0024, cominciamo a dare delle piccole linee, ce le immaginiamo, un regolamento che possiamo immaginarci noi perché ancora non è stato reso ufficiale. Io penso che stamattina in sette città d'Italia ci sia un gran brusio attorno all'ufficio del sindaco. Ci saranno, non so, gli assessori, i consiglieri, i funzionari delegati alla povertà, alla ricerca della povertà, che saranno lì. Ognuno avrà i suoi foglietti, ognuno avrà le sue classificazioni, le sue indicazioni. Come si sceglie la famiglia povera da mandare a Sanremo? Devono essere poveri, poveri realmente poveri, o poveri televisivamente rappresentabili? Potrebbe essere un povero tipo Umberto D, un dignitosissimo signore pensionato con la sua grisaglia che tiene tutte le sere, se la stira, se la lava, se la rammenda, riesce ad andare dal barbiere, perché esiste un barbiere anche alla Caritas dietro la stazione di Sanremo che per pochi spiccioli fa barba e capelli, riesce a mantenersi pulito perché va al diurno, riesce a avere un aspetto dignitoso, magari il più povero di tutti, magari non ha da mangiare, per mangiare deve andare appunto alla mensa dei poveri, ma non è televisivamente rappresentabile. Immagino sia meglio una famiglia numerosa con tanti figli, tanti bambini, e con un padre disoccupato, con una madre macerata dalle tante gravidanze, massacrata da una vita faticosa, e probabilmente Pisapia starà già cercando in questa direzione. 800240024, datevi da fare, è il casting dei Magnifici Sette, il grande reality, il fanta reality della povertà. Un po' di umanità, non verso di noi grandi, perché noi grandi su una panchina o una coperta potremmo starci, ma verso mio figlio. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Vuole candidarsi a reality oppure vuole fare un suo commento? Io mi vorrei candidare a reality. Ma lei è abbastanza povero? Io sto diventando abbastanza povero. Di che città è lei? Io all'Aquila. All'Aquila però, vedi, nonostante fosse terremotata, non è stata messa nell'elenco dei Magnifici Sette sindaci. Bravissimo, bravissimo. Noi ancora aspettiamo i soldi per le attività. Io avevo un'attività. Guardi Roberto, la posso chiamare fratello terremotato? Anch'io ho una casa terremotata che ancora non sono riuscito a rimetterci piede dal giorno del terremoto, quindi. Come preferisci, l'importante è che qua bisogna sapere cosa vuol dire essere povero. Se uno è povero, faccia il suo appello, lei faccia come se fosse. Se uno è povero. Aspetti Roberto, dobbiamo seguire la liturgia del reality. Le immagini di essere in un confessionale. Un confessionale magari non bello, tutto rosso così, tristissimo, rivestito di latta di bandone, di pagine di giornale, di schifezze terribili. Faccia l'appello al sindaco e dica: voglio partecipare al reality. Voglio partecipare al reality in qualità di famiglia povera. Povero quanto? Povero da 1 a 10? Sì. 11. Allora, Roberto, povero 11... Però dico io che... lavoro 24 ore al giorno, però, Quanti figli da mantenere? Io due, lavoro 24 ore al giorno e poi c'è chi è povero che non ha mai lavorato. È diverso, Facciamo così, Roberto. Proviamo a aprire una possibilità, visto che anche il regolamento del Grande Fratello cambia continuamente. Casomai ci sentisse Celentano, invece che i magnifici sette, non so, magari toglie Cagliari e mette l'Aquila, che mi sembra che in questo momento abbia più problemi. L'implacabile legge del reality sfuma sull'appello di questo signore. Guardate, io voglio fare subito una premessa. Non voglio scherzare sulla povertà. La povertà è uno spettro terribile. La povertà è ancora più terribile quando è nascosta. È ancora più terribile quando deve essere simulata. Quando uno arriva al fatto che può tendere la mano e può ormai abbandonare ogni tipo di pudore e dire, perché proprio allo stremo, sono povero, aiutatemi, è già arrivato al punto in cui la povertà probabilmente è nella sua fase di esternazione. La povertà finché è nascosta è terribile, quindi io penso, le famiglie povere dovranno essere classificate, dovranno in qualche maniera, figuriamoci, avere una loro pubblica esternazione, perché figuriamoci se la grande macchina della riproduzione del reale, se la grande macchina dell'esaltazione del divismo, se la grande macchina di santificazione Celentano, avete sentito Morandi, il più grande cantante, il più grande artista, il più grande uomo del mondo, d'Italia, che rappresenta, non me lo metto in dubbio, sicuramente non ho strumenti io per giudicare questo, ma pensate se sia plausibile che non ci sia già una macchina di giornalisti pronta a partire, a scattare alle calcagna del sindaco per andare a individuare la famiglia povera. E queste sette famiglie povere poi dovranno raccontare della loro povertà, sì, probabilmente prenderanno una bella sommetta. E le famiglie seconde in povertà, quelle che sono state nominate soltanto per un pelo, per un figlio in meno, per qualche spicciolo in più che magari era nelle loro tasche, come rimarranno di fronte al fatto che loro sono state nominate? Ci sarà un repescaggio, ci sarà una possibilità di recupero, ci saranno quei programmi paralleli al Festival di Sanremo, che ne so, Giletti magari... Alla sua arena recupererà la famiglia seconda povera e darà loro un'altra chance. Mi sembra che questo mio fantasticare secondo i dettami televisivi non sia poi così peregrino. Conosco abbastanza bene questo tipo di macchina, conosco come parte immediatamente, velocemente la riproduzione reale, e nulla mi impedisce di pensare liberamente, pronto ad essere contraddetto, che verso questa direzione si sta andando. Vincenzo, buongiorno. Salve, buongiorno. Vuole partecipare a reality? No, assolutamente no. Mi sembra veramente una cosa ridicola tutto ciò. No, io non do giudizi, semplicemente ho espresso il mio pensiero. Assomiglia tanto alla creazione di un nuovo reality sulla miseria, però può essere che mi sbagli. Sì, in effetti mi sembra proprio così, ma il fatto di devolvere il compenso come vorrebbe fare Celentano è un'azione molto nobile. Però sicuramente, figuriamo. È un po' ridicola la cosa di trovare sette famiglie più povere, perché tante poveri ce ne sono parecchie, e poi queste poveri con questo compenso diventerebbero, non sarebbero più poveri innanzitutto. Adesso non ho fatto i conti, ma si tratta di un discreto numero di migliaia di euro che si piglierebbe ogni famiglia. Infatti, perché sì, a questo punto o allargare il bacino delle famiglie e accontenterebbero più famiglie, o se no io avrei scelto delle associazioni, delle Caritas, sì, ma poi come la mettiamo con l'impatto dei magnifici sette? Le immagini, sette bravi sindaci, tutti sul palco di Sanremo, tutti con la loro fascia tricolore e tutti con dietro la loro famiglia povera che hanno scelto. Guardi che è una coreografia a cui difficilmente si possa rinunciare, secondo me. Sì, infatti, come dice lei, fa uno spettacolo, diventa uno reality. Io fossi in Celentano avrei devoluto il compenso, l'intero compenso alle beni culturali, che in Italia veramente ce ne ha veramente bisogno, visto che lui è un artista, un grande artista. Devolvere compenso a tutti i beni culturali in Italia, che veramente ce ne sarebbe tanto bisogno. Ma vuole mettere, ma scusi Vincenzo, lei, il suo punto di vista è rispettabilissimo, ma la televisione ha delle regole. Lei vuole mettere, portare una foto del Colosseo che cade o una foto di un ha citato l'ascoltatore prima, l'Aquila in Abruzzo, ci sono capolavori inestimabili che stanno cadendo, che nessuno se ne sta occupando. Vuole portare questo di fronte all'impatto della beneficenza ostentata, della grande opera di carità, della famiglia povera che viene rimpannucciata dalla televisione. Lei contraddice, dimentica 20 anni di TV Verità, quindi essenzialmente hanno ragione loro da questo punto di vista. Grazie Vincenzo. Angelo, buongiorno. Angelo. Sì, buongiorno. Io sentivo parlare della beneficenza che farà Celentano. È un reality, Magnifici 7. Ma guardi, sette sindaci sceglieranno sette famiglie disgraziate. Ma guardi, c'è tanta altra gente che lo fa in silenzio e senza creare problemi. Invece Celentano, un gran chiacchierone. No, vabbè, chiacchierone no, ha dei lunghi silenzi, passa la storia per i suoi silenzi. Però in questo caso probabilmente era un'occasione di silenzio che è stata abbandonata. Ma io, guardi, non voglio fare il moralista, guai. La televisione ha delle sue regole. È chiaro che dopo una polemica così stringente che c'è stata, che non condivido, per cui si diceva in un momento di crisi dare tutti questi soldi a Celentano è immorale, non trovo sia immorale. Un artista ha il suo cachet, ha il suo mercato. Se un'azienda considera vantaggioso per se stessa pagare un artista anche cifre molto elevate, è giusto che lo faccia, purché alla fine quadrino i conti, che sia vantaggioso per l'azienda questo investimento. Se l'azienda ha un vantaggio industrialmente, conviene chiamare quell'artista, perché non spendere i soldi? Perché questo senso di colpa per cui sento una sorta di sinistro suono alle sue spalle. Cos'è, Angelo? No, adesso non suona più. Ah, non suona più. Cos'è, al suo telefono? No, era la cintura di sicurezza. Ah, andava senza cintura di sicurezza. Beh, stia attento, perché passerebbe in un altro settore televisivo, in quello dei sopravvissuti o degli incidenti paurosi. Grazie, sentiamo Michele. Michele, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io ho una proposta scandalosa all'italiana da fare per poter partecipare a questo bellissimo reality. Lei vorrebbe partecipare, quindi? Sì, però purtroppo non sono povero. E in quale comune, innanzitutto si muove? Beh, vediamo, quello si può aggiustare. Bologna non è stato considerato un sindaco lontano dalla politica, quindi evidentemente il sindaco di Bologna non è fra i sette magnifici sette. Non ce la facciamo, però la proposta che faccio io per promuovere la mia candidatura è questa. Invece di perdere tempo a cercare dei poveri o dei poveri che possano essere televisivamente retti. Oddio, non è che sia difficilissimo trovarne, diciamo. No, sì, non si perde tempo. La mia proposta è, caro Celentano, facciamo a metà. Io ti creo una bellissima famiglia finta che agli occhi delle telecamere sarà la più struggente che si sia mai vista. Dopodiché tu avrai il tuo ritorno d'immagine, perché la mia famiglia povera finta veramente farà spavento. Sarà più povera di una povera vera, sicuramente. Ma sì, ma certamente. E come se la immagina la famiglia povera tipo per la televisione? Non vorrei dire brutte cose. No, ma lo dica con delicatezza, senza insultare chi ha veramente dei problemi. Però lei, se fosse un cinico produttore televisivo, anzi, dovesse rappresentare una famiglia povera degna di essere portata, immagini, davanti il sindaco con la fascia, anzi, sette sindaci con sette troni, sette sindaci con tutti con la sciarpa tricolore, al centro Celentano con in mano una cornucopia con tutti, naturalmente gettoni d'oro, perché alle famiglie povere si danno gettoni d'oro, mica si danno, ecco, dai gettoni d'oro e poi dopo li dichiara le tasse, dietro le famiglie come le rappresenterebbe? Vabbè, sicuramente una bellissima capanna in campagna costruita con della legna, quindi qualche cosa che racconta un pochino il cristianesimo. Devono vivere in una capanna? Sì, 5-6 figli come minimo, dei quali un paio non propriamente dritti, scusate il termine. Sì, quindi con dei problemi ulteriori. Sicuramente sì. E dopodiché una lunga storia alle spalle, o di rifugiati di guerra, oppure di gommoni, per cui questa famiglia... Ah, quindi anche stranieri. Lei mi ha... dato una nuova apertura e una nuova deriva. Chiaro, come in ogni reality c'è da essere l'elemento politicamente corretto che dia quella nota di apertura, è chiaro che uno dei sette sindaci, sono pronto a scommetterci, cercherà una famiglia che naturalmente avrà alle spalle una storia di terribile immigrazione, non perché con questo io voglia sottostimare il grande problema, perché se vogliamo entrare in questo perverso meccanismo che tutto ciò che deve essere rappresentato, ad avere delle tinte forti, deve andare a insistere su degli stereotipi che comunque sono stati sempre, comunque in tutte le fasi del reality show ricordati, ribaditi e reiterati, è chiaro che ci sarà anche questo che lei suggerisce. 800 24 00 24, tra un istante dopo le informazioni della borsa con il fantastico reality I Magnifici 7. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Noi speriamo in tutti i modi che qualcuno senta questo appello e che ci contatti, perché accettiamo qualsiasi tipo di lavoro e di sistemare la situazione anche per la bambina. La sigla fantastica dei Magnifici 7 suggella quello che questa mattina abbiamo chiamato il casting del nuovo grande reality, festival beneficente, non so bene come chiamarlo, ancora non so bene, si tratta a questo punto di beneficenza fatta pubblicamente, fatta secondo un sistema e un meccanismo che è molto televisivo. Sono stati proclamati Magnifici 7, che sono sette sindaci di sette grandi città italiane. I sette sindaci sono già attivati, stanno trovando la famiglia più povera del loro comune, comuni come Milano, Roma, Napoli, Verona, Firenze, Cagliari, adesso non so se ne ho saltato qualcuno, e poi queste sette famiglie riceveranno, penso pubblicamente, perché figuriamoci chi vorrà togliersi il piacere di vederle, capirle, intervistarle, capire le radici della loro miseria, avranno il beneficio di vedere distribuita fra loro sette parte dei proventi di Adriano Celentano al Festival di Sanremo. In sé la cosa è ammirevole, figuriamoci, occuparsi di chi ha bisogno da parte di chi ha molto è una delle più ammirevoli operazioni che possa fare un essere umano. Ma probabilmente, e non ho nessuna dignità per poterlo dire, nessun merito per poterlo dire, sono l'ultimo degli egoisti, lo dico subito, quindi non parlo da nessun pulpito, probabilmente l'uomo che passava alla storia dello spettacolo per i suoi silenzi avrebbe potuto fare in modo che anche su questa fantastica operazione fosse caduto il silenzio, perché secondo me fare del bene, soprattutto non urtare la dignità di chi è in una situazione di indigenza e ha bisogno di essere aiutato, con questa fantastica macchina in cui i sette sindaci, figuriamoci, hanno aspettato 30 nanosecondi per dichiarare subito alle agenzie di stampa: ci stiamo dando da fare, ci stiamo muovendo, cercheremo la famiglia più povera. Forse un tono un po' più sommesso avrebbe giovato, ma probabilmente bisognava sanare il senso di colpa per le proteste che c'erano state per il cachet di Celentano, che io giudico adeguato a un artista, se l'artista comunque porta un vantaggio industriale all'editore che lo chiama. Ma oggi su questo invece mi sto interrogando. Quale sia il senso del casting della povertà? E per avere una persona che probabilmente con dignità e con rispetto presento, perché da tutta la vita si occupa di questo a differenza di me che parlo e straparlo, vorrei chiedere a Vinicio Albanesi cosa ne pensa. Vinicio Albanesi è responsabile della comunità di Capodarco. Don Vinicio, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, a te. Don Vinicio, ti è mai venuto in mente a te fare il casting dei poveri per sapere a chi dover dare e a chi non dover dare? Ma prima di tutto è diabolico, perché noi abbiamo il detto evangelico che dice: non sappia la destra ciò che fa la sinistra. E lui per questo ha scelto i sindaci più lontani dalla politica, come Alemanno, come Pisapia, come Renzi. Così la destra non sa quello che fa la sinistra. Non lo so, forse era questa la sua lettura. Non ho idea, non voglio fare una battuta, perché hai perfettamente ragione. Certe cose andrebbero fatte in silenzio, ma quando metti di mezzo i sindaci, gli uffici stampa delle municipalità, secondo me è un po' difficile che ci sia silenzio. Ma è diabolico nel senso che con un atto di generosità che deve rispettare gli altri, invece ci si costruisce sopra lo spettacolo. Quindi probabilmente troveranno anche delle famiglie simpatiche che, su cui potranno far divertire e ridere, e quindi è diabolico perché mettono insieme lo spettacolo insieme alla povertà, che è una, che è una condizione di vergogna, di miseria, di silenzi. Tu sei mai trovato, Vinicio, nella tua lunga carriera di prete impegnato proprio verso le emergenze, di dover scegliere, di dover dare a uno piuttosto che a un altro quello che avevi, di cui avevi a disposizione? Ma no, io perché c'ho questa logica: quando uno si sforza di aiutare una persona, una famiglia, è più utile creare una condizione in cui invece di aiutare una famiglia ne aiuti 10, ne aiuti 100. Cioè, in realtà, costruendo qualcosa di collettivo, tu riesci a raggiungere risultati maggiori e in termini di qualità e di quantità. Per cui mai avuta questa occasione. Quindi piuttosto fa venire l'indigestione a una persona che magari non mangia da tanto tempo, è meglio sfamarne in maniera un po' più sobria un numero maggiore. Questa è la tua idea? Non solo, ma bisogna stare molto attenti, perché quando il povero, tra virgolette, cioè l'indigente, ha una somma, si ubriaca, compra telefonini, televisori, quando una persona non vive una vita normale e magari ha sognato cose pure in una condizione normale desiderabili, in realtà nel momento del bisogno scatta. Quindi bisogna essere attentissimi, altrimenti questi aiuti vanno a nulla. Allora, tu in positivo, se tu avessi a disposizione una cifra notevole, si parla di forse una parte di 700.000 euro, non so quale parte, ammettiamo che ci siano 300.000-400.000 euro da dare ai poveri, quale sarebbe, venisse a te silenziosamente un benefattore, dice questa cifra, cosa puoi fare? Quale sarebbe la maniera giusta e corretta, ma tecnicamente, al di là di ogni ideologia o presa posizione, per fare maggior bene possibile con questa cifra? Io direi a questa persona, prima di tutto, che cosa preferisci fare: minori, famiglie, persone in disagio, disabili, carcerati. Quindi scegliere un segmento, e questo segmento, sopra questo segmento, farci un progetto. Allora dici: se dobbiamo aiutare i bambini che non vanno a scuola, prendiamo una scuola e vediamo qual è l'abbandono scolastico. Se prendiamo i senza dimora, creiamo una struttura, 50 posti letto, in modo tale che questi possano dormire e mangiare. Oppure se ci sono delle famiglie che non riescono a pagare l'affitto, creiamo una rete in modo tale che possano pagare le utenze e gli affitti. La forma più ovvia. E è corretto partire dal sindaco? Il sindaco di una città grande come Roma dovrebbe trovare faccio l'esempio di Roma perché ci abito, la famiglia povera da selezionare. A me sembra proprio il meccanismo della nomination di un reality. Come fa un sindaco a decidere qual è la famiglia che deve dare a Celentano perché lui la possa beneficare? Quali strumenti ha? Credo che questo sia solo, come dire, una invenzione diabolica di tipo propagandistico, di tipo pubblicitario, basta. Quindi non ci perdo manco il pensiero, perché figurarsi, a Roma ci sarà qualcosa come 500, 600, 700 mila poveri, figurarsi che senso andare a pescare una famiglia, e poi la pescheranno in modo tale che sia simpatica, che ringrazi, che faccia sorridere e che non crei problemi. Immaginate se oggi sono tutti lì al Campidoglio davanti all'ufficio d'Alemanno a bussare e dire scegli me. Lì veramente sembra il casting del Grande Fratello. Sì, sì, però fatto con meccanismi depravati, cinici. Grazie Vinicio Albanesi, ricordo responsabile della comunità di Capodarco, un prete che da quanti decenni ti occupi te di marginalità? 4 decenni, 40. 40 anni, ancora ce n'è da fare ancora. Grazie Vinicio, buona giornata. Grazie. Giuseppe, buongiorno Giuseppe. Buongiorno. io... Torniamo al nostro casting. Lei vuole partecipare come concorrente o no? No, no, no. Io volevo dire soltanto due cose. Io mi occupo persone indigenti che, mio malgrado, nel lavoro che faccio l'avvocato, riesco ad aiutare con il cosiddetto patrocinio gratuito. E quindi nella mia piccola realtà di Pistoia ho visto casi molto emblematici di gente che veramente non ha i soldi per mangiare, che va alla Caritas pistoiese tutti i giorni, e cose, diciamo, che con il lavoro che svolgo mi hanno segnato profondamente. E quindi lei del casting della povertà cosa ne dice? Ma io penso che sia tutta una strumentalizzazione pubblicitaria, perché Adriano Celentano sappiamo che è un personaggio che da 40 anni calca le scene dello spettacolo, e quindi a differenza di altre persone come quello che ha vinto l'anno scorso, Vecchioni, che sappiamo essere una persona impegnata di sinistra, avrebbe potuto anche Roberto Vecchioni devolvere parte degli introiti che ha avuto sia Sì, però non può essere un obbligo, che uno per forza sentirsi in obbligo. Se uno si guadagna dei soldi, è giusto che si faccia quello che pare. Non vorrei nemmeno far passare il ricatto: quanto devolvi in beneficenza? A me lo venisse a dire uno: quanto devolvi il tuo stipendio in beneficenza? Dico: nulla, sono fatti miei. Non mi piace nemmeno, mi perdoni avvocato, ho molto rispetto per la sua attività che reputo importantissima. Anche il diritto alla difesa assume delle circostanze molto drammatiche quando ci si abbandona semplicemente così a quello che capita. Un avvocato motivato che aiuta una persona che non potrebbe altrimenti procurarsi una difesa consapevole, efficiente, costante, è una grande operazione. Però ripeto, attenzione, che la beneficenza è qualcosa di cui non si dovrebbe parlare, si dovrebbe fare basta. Chi può farla, chi ha cuore di farla, chi ha voglia di farla e chi ha la leggerezza di farla senza la necessità di sentirsi gratificato dal plauso degli altri. Melog, la realtà condivisa. Un appello al sindaco. Io chiedo: che cosa dobbiamo fare? Che cosa stiamo aspettando? Sono le ultime battute di questa nostra tentativo di pre-casting per i Magnifici 7, il Fanta Reality Festival filantropico lanciato ieri in occasione della conferenza stampa del Festival di Sanremo, in cui è stato detto che Celentano devolverà il suo cachet al Festival di Sanremo, con questo meccanismo che è molto simile al meccanismo di un format di reality show. 7 sindaci saranno scelti in 7 città d'Italia, i 7 sindaci troveranno 7 famiglie povere e le 7 famiglie povere saranno beneficate dai soldi di Celentano. Simone, cosa ne pensa? Buongiorno. Gianluca, buongiorno. Ma io mi viene un po' questa similitudine in mente. Mi sembra un po' il film di Willy Wonka e della fabbrica di cioccolato. La fabbrica di cioccolato, anche lui. 7 biglietti d'oro per 7 bambini. 7 poveri, bravissimo, bravissimo. Per cui mi lascia un po' perplessa questa iniziativa che è stata fatta, o piuttosto mi sembra un po' strana come posso definirla, questa formula pubblicitaria trovata da parte di non si sa chi o si sa chi ma non lo si vuole dire. È più facile attribuire ad altri l'onere e il dovere di cercare questi poveracci, cioè a questo punto facciamo dei reality per poveri al posto di metterci le starlette e questi vippetti che ci sono in giro. Cioè invece dei morti di fame, i veri morti di fame, che ce ne sono sempre tanti. Questo. Bravissimo, bravissimo. Mi sembra un'assurdità, sembrano un po' i 5 minuti di celebrità che voleva definire, non so, Andy Warhol, piuttosto che voleva definire, cioè mettiamo come regista di Sanremo a questo punto un personaggio come Woody Allen alla regia, cioè per dire, mi sembra tutto una trovata assurda, magari, certo. quello che mi viene in mente è chiaramente, come ha detto il buon Don Vinicio Albanesi, premettendo che io sono assolutamente ateo e però condivido appieno, come condivido il messaggio che lei ha lanciato in apertura dopo lo spazio delle 10:30, che ce n'è un sacco di poveri. E io ho letto tra le righe che cosa lei ha detto, no? È vero che lei si mette in mezzo e non definisce niente perché non vuole dare giudizi e non vuole mettersi nella posizione di farlo, ma è un'assurdità. Dominici ha detto ma diamo 50 letti, diamo qualcosa per sfamarli, cioè 500.000 poveri. Chi lo fa di mestiere e non è una tantum, perché parli di 6 giornali, sa che dietro ogni azione ci vuole un progetto. Guai a non fare progetti, significa dilapidare quelli che sono già i magri fondi destinati appunto all'aiuto. Quindi se c'è un progetto, il progetto non è certo 7 sindaci che, ripeto, 10 secondi dopo la notizia già erano davanti alle agenzie di stampa a dire vi darò da fare, subito Pisapia ha detto mi darò da fare, individuare, pensate a Napoli, individuare la famiglia povera, ma io immagino sarà già un corteo di persone lì dal sindaco a dire scegli me signor sindaco. Gabriele, buongiorno. Buongiorno, sono Gabriele e sono membro della San Vincenzo. Quelle che una volta erano le dame di San Vincenzo, queste qua? No, è la parte maschile. Sì. Le ricordo, io mi invitavano a fare la cioccolata per i poveri una volta ogni tanto quando ero piccolo. Esatto, diciamo che io dico che la dignità del povero non deve essere mai toccata, perché i poveri alle volte gli resta solo quello e non è possibile togliere la dignità a un povero. E la dignità secondo lei si toglie mettendoli in una sorta di nomination, di reality show, dire tu sì tu no? Sicuramente, noi facciamo la visita alle famiglie povere e bisogna andare discretamente senza farsi notare. Ecco, voi... Quale suggerimento potreste dare voi della San Vincenzo, che anche voi da tantissimo tempo vi occupate di povertà? E soprattutto la San Vincenzo sono persone che hanno vite normali, anche delle situazioni privilegiate. Io ricordo le dame di San Vincenzo erano signore della Perugia benestante che però si occupavano di poveri, poi lo facevano a volte in maniera eccelsa, a volte in maniera ostentativa. Questo poi dipende dalle singole persone. Ecco, voi che consiglio dareste? Secondo voi amministrereste un patrimonio del genere? Una tantum? Come non ho parlato con altri miei confratelli, posso dire il mio tecnicamente, parere. Un parere tecnico. Tecnicamente dare i soldi a un'associazione che si dedica ai poveri, come può essere la San Vincenzo, se ne sono anche altre, perché sarebbe il modo più discreto per arrivare al povero. Senza clamore. Sì, però è un meccanismo televisivo lanciato alla conferenza stampa, solo clamore deve avere, se no su questo si regge. Claudia, però... buongiorno. Grazie, Gabriele. Claudia? Buongiorno. Claudia. Sì, signor Nicoletti, pronto? Sì. Ma nessuno vuol partecipare al casting, vedo che non c'è molto interesse. Io, anche se me la offrono, non l'accetto. Io la carità non l'accetto, parto subito da questo. Poi, soprattutto perché viene fatta da una TV dello Stato. Vabbè, lei è fortunata che non ne ha bisogno. Io avessi bisogno per i miei figli. Ne avrei bisogno. Accetterei qualunque cosa, figuriamoci. Io mi rimbocco le maniche piuttosto. Sì, proprio, ecco, poi... Sì, però parliamo di situazioni. Ci sono delle situazioni in cui io dico, penso come penso qualunque genitore direbbe, di fronte alla necessità della famiglia, uno la propria dignità se la mangerebbe a morsi 100.000 volte al secondo, esatto, se dovesse anteporla al benessere della propria famiglia, figuriamoci, è impossibile definirlo se non ci si trova dentro. Comunque lei dice che non accetterebbe, al suo punto di vista non l'accetterebbe, e questo è già un punto. Michele, buongiorno. Buongiorno, io volevo solo segnalare che esiste già un reality facsimile di quello di cui parlavate voi, e cioè si può vedere sulle reti satellitari. Sì, ha ragione, è vero, sì. È l'Extreme Makeover Home Edition americano. In cui gente con delle case schifosissime che gliele fanno belle. Esatto, una famiglia per ogni stato americano, il pullman gira, loro fanno vedere tutta la miseria, la loro situazione, cosa che ha causato questa situazione, e poi gli ricostruiscono una casa da zero con piscine. Sì, oddio, tutta di cartongesso e di compensato, una casa che durerà 30 secondi dopo la sigla del programma, però sono contenti, felici, lì saltellano, esatto, finché sta in piedi, è fatta di carta velina. L'ultimo, Giancarlo, ha un secondo, lei è una telefonata polemica, esprima tutta la sua polemica finché la sigla non la sfuma. Nicoletti, velocissimamente, buongiorno. Buongiorno. vi ho sentito sbrodolare per tutta la mattinata. Beh, sbrodolare è una parolaccia. Sì, comunque... sbrodolare per questo motivo, perché una volta tanto che Celentano ha fatto una cosa giusta, l'ha gridata alle migliaia, alle decine di migliaia di milionari, ultramilionari che ci sono in Italia: date una mano. Non va fatta con discrezione questa cosa qui. Avrà un ritorno pubblicitario anche per lui, sicuramente. Però ha tirato veramente un sasso forte. Fatelo, fatelo. Va bene, alle decine di migliaia di milionari italiani, gli dice: fate altrettanto e fate di pubblicità. Fate di pubblicità in questo modo, accidenti. Accetto la sua critica, la sua nota. Fatelo. Chi può farlo, lo faccia. Sono contento che lo facciano. Non ho detto di non farlo, mai lo dissi.